ci pensi per niente prima di uscire di casa. Sotto il sole bollente, la fatica si paga. Fallottista da anni, sempre il solito caldo. Non ti uccide la guida, ti stronca un infarto. Sotto il sole, la pioggia costruiscono case. Il lavoro ti forgia, valla a dire a Mohamed. È arrivato in Italia, né diritti né ferie. 30 anni e muore tra dei dita e macere. Colpa di quel pilastro che ha ceduto di botto. Colpa di quel nastro che di colpo si è rotto. Colpa del suo capo, della sua prepotenza. Si è perso la vita, molto in speranza. Un mio grande fra, lontano dalla pensione. Muore folgorato dall'alta tensione. Colpa solo del cavo, non era provato. Ma la prova di ciò ce l'ha in mano lo Stato. Approccia la vita in fondo all'eterno. Adesso urla. Morti bianche per colpa del potere. Morti bianche, genocida a luci nere. Poveri oggetti morti sul lavoro senza una colpa. Morti bianche alla tomba dal lavoro. Morti bianche, morti senza perdono. Se ti chiamano in fretta la paura è maggiore. Lo sapeva il pompiere di nome Salvatore. Si reca sul posto, anche questo salvato. L'aspettano a casa ma lui muore bruciato. Non ci sono parole quando rimani schiacciato dalla gru di tuo padre, il corpo dilaniato. Il cavo d'acciaio non era provato. Nessuno in cantiere l'aveva dichiarato. Bene anche indagato per omicidio colposo. Sistema giudiziario a dir poco penoso. Doloroso sapere da un agente in borghese che tuo figlio è morto ma per il suo paese. Tu non la vuoi vedere ma non è mica finita la lista di chi così ha perso la vita. Ci vuol coraggio a leggerla fino in fondo. Viene l'ansia a pensare come gira questo mondo. Adesso urla. Ecco, questa è l'Italia oggi. Più di 1000 morti in un anno per il loro paese, per qualche soldo, per tirare avanti, per vivere. Yeah. Approccia il lamento in fondo all'inferno. Adesso urla. Morti bianche per colpa del potere. Morti bianche, genocidi a luci nere. Poveri contenti, morti sul lavoro senza una colpa. Morti bianche alla tomba dal lavoro. Morti bianche, morti senza perdono. Funerali di Stato, carichi importanti. Strette di mano, sguardi inquietanti. Portano alla luce pensieri pesanti. Come massa imponente addirittura elefanti. Entrano in chiesa parenti vestiti eleganti. Siedono avanti davanti agli altri. Di queste stragi, di queste morti assurde ce ne saranno mille. Me le ricordo ancora tutte. Morti per lo Stato, trasparenti come il vetro. Impossibili da accettare perché lasciano indietro. Persone innocenti, distrutte dal dolore di un fratello. Un figlio del loro grande amore. Solo persone, per voi solo persone. Diventati casi senza neanche avere un nome. Solo statistiche alla TV. Solo persone, niente più. Solo statistiche alla TV. Solo statistiche alla TV. Solo statistiche alla TV. Solo statistiche alla TV. Solo persone, niente di più. Yeah! Non si può continuare così. Qua si deve fare qualcosa. Cratfish, morti bianche, Missy Ale, Black Back Production. Yeah! Ricordatevi di me, ricordatevi del mio nome. Queste ingiustizie devono finire. Mai più così. Yeah!